boys, I think we're gonna do another one. We're gonna do another one, is that okay? This is a little love song called Wang Dang, Sweet Poon Tang. Trovati come sempre ad una nuova puntata di Rock Legends. Al microfono come sempre c'è il vostro Jean-Luc, ancora ospiti in studio. Stavolta dal milanese ci è venuto a trovare una formazione e come sempre ci presenterà il loro disco. A voi la parola per le presentazioni. Ciao, siamo i Wheels of Fire, una rock band da appunto da Milano, zona Milano Varese. Io sono Davide Barbieri, Dave Rocks in arte, cantante e leader della band. Qui al mio fianco c'è Stefano, chitarrista della band, che ha anche un cognome, si chiama Stefano Z. Esatto. Ci teniamo tra l'altro a salutare i nostri compagni di viaggio che sono rimasti a casa, cioè al basso Marcello Suzzani, alla batteria Fabrizio Cellini e alle tastiere Andrea Vergori. Per gli amici Ondi. Esatto. E con i Wheels of Fire una prima parte dedicata ad alcune esibizioni live di grandi protagonisti dell'hard rock inglese ed americano. La prima canzone era Wang Dang Sweet Poon Tang di Ted Nugent nel 1977, registrata dal vivo in quegli anni. Personaggio assolutamente fuori dal comune ma ancora attivissimo, tanto da aver realizzato nella sua carriera finora più di 6.000 concerti. Secondo voi qual è il segreto della sua longevità? Ragazzi, questo è veramente un personaggio. Io penso che personaggi come lui, proprio nella scena del rock, sono destinati a stare sul palcoscenico, perché è lì la loro vita, è la loro linfa vitale, secondo me. È veramente un grandissimo. Tra l'altro io l'ho conosciuto non per la sua carriera solista, ma un po' più tardi, quando nel 91 formò assieme a Jack Blades e a Tommy Shaw, se non erro, i Damn Yankees, esatto, un super gruppo più, diciamo, vicino a quelle che sono le mie influenze, diciamo, musicali. E comunque veramente un personaggio unico nel suo genere, un po' particolare, diciamo, per le sue credenze, per così dire, visto che lui è proprio un fanatico della, della caccia. Un arco e frecce. Esatto. Senza pallotta, insomma, è troppo facile. Un Robin Hood, una sorta di Robin Hood. Al contrario, però. Esatto. Però veramente, insomma, ha lasciato, insomma, del segno e continua a farlo, quindi tanto di cappello a questo, questo ragazzo, direi, ancora. I Wheels of Fire sono assieme dal 2006, una cronistoria della band, perché avete deciso di chiamarvi così? Ma guarda, in principio doveva essere quasi un progetto solista il mio, il nome destinato a questo progetto era Dave Rocks, poi in accordo appunto con la casa discografica abbiamo optato per identificare con un nome più da band, diciamo, questo progetto, quindi il nome è cambiato in Wheels of Fire. E sì, siamo assieme dal 2006, l'anno in cui abbiamo iniziato, diciamo, a scrivere i primi pezzi e a collaborare assieme a Michele Luppi, che ha poi prodotto il disco. Dopodiché ho conosciuto Stefano alla chitarra, visto che suonavamo già in una cover band, e subito, insomma, gli ho chiesto se voleva far parte di questo progetto. Lui ha subito detto di sì. Abbiamo lavorato assieme alle parti di chitarra, sempre sotto la supervisione di Michele, e dopo 3 anni lunghi, ma insomma non abbiamo dato veramente nulla al caso, abbiamo tentato di fare il meglio in questo primo album, siamo riusciti a, insomma, sfornare questo primo CD e siamo molto orgogliosi. Si chiama Hollywood Rocks, uscito nel 2010, proprio l'anno scorso, e quindi eccoci qua. Ancora musica rock e passiamo al 1974 con il super trio Beck, Bogart e Napice. L'unione di questi tre musicisti ha fruttato solo pochi ma significativi dischi, come il Live in Japan di quell'anno, da cui ascoltiamo la funambolica Living Alone. Just a girl, also worth a prayer. You'll be my Re musicisti già noti che hanno saputo cercare un groove assolutamente devastante in quegli anni. Che ne pensate? Ma secondo me sono veramente un gruppo che è stato poco considerato. Sì. Sono veramente una band eccezionale. Parlando da chitarrista, ti posso dire che secondo il mio punto di vista Jeff Beck è veramente un grandissimo, uno di quei chitarristi che sicuramente ancora oggi può essere preso come modello, in quanto ritengo che sia un chitarrista molto libero dal punto di vista compositivo. Anche e sotto... completo. Molto completo, sì sì, assolutamente. Molto ricco nel fraseggio e privo di schemi. Lo sento molto libero. E sono indubbiamente una band molto, molto carismatica. Trasmettono delle grosse emozioni. Tra l'altro ricordo Apice in un grande progetto, perché io sono rimasto sempre come prima Ten Nugent. Lo ricordo nei Damn Yankees, Apice lo ricordo nei Blue Murder, un grandissimo gruppo fine anni 80, assieme al chitarrista ex chitarrista di Whitesnake, John Sykes, spero si pronunci così. John Sykes. John Sykes, hai capito? John Sykes. Tac. Comunque ha fatto due album splendidi in quel periodo. Condivido. Vostre esibizioni come sono andate? Quali più importanti in termini di esperienza e le impressioni che avete raccolto dal pubblico alla fine dei live? Guarda, sono andate molto bene, forse quella che ricordo con più gioia, affetto, diciamo, è proprio stato l'esordio, che se non erro era settembre dell'anno scorso. Insomma, la prima data eravamo belli carichi e tra l'altro il pubblico ha risposto molto bene e per quello, insomma, siamo molto contenti e sicuri di aver fatto comunque un bellissimo lavoro e quindi convinti di aver preso la strada giusta, ecco. Quindi ecco, la prima data è quella che ricordo con maggior soddisfazione ed emozione, esatto. Esatto. Concludiamo questa prima parte con i Grand Funk Railroad, il trio di Flint and Michigan, dall'esplosivo album Live Caught in the Act del 1975, con il classico We Are an American Band. Fra poco per la seconda.